fra nella gabbia dei leoni, mie fra nella gabbia dei leoni, dei leoni, dei leoni. I miei fra nella gabbia dei leoni, i miei fra nella gabbia dei leoni, i miei fra nella gabbia dei leoni, leoni, leoni. Si lanciano dentro al cerchio di fuoco, manco fosse nel vuoto, un mistero, un gioco. I miei fra nella gabbia dei leoni, i miei fra nella gabbia dei leoni. Dentro un cerchio, un mistero, un gioco. Dentro un cerchio, un mistero, un gioco. Un fuoco, noi due andiamo a fuoco. Noi due andiamo a fuoco. Mi fra nella gabbia dei leoni, mi fra nella gabbia dei leoni, mi fra nella gabbia dei leoni. Noi due andiamo a fuoco, noi due andiamo a fuoco, noi due andiamo a fuoco nella gabbia dei leoni, nella gabbia dei leoni, dei leoni, dei leoni.